24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Indubbiamente, se ieri la partita l'avesse giocata l'Italia, oggi questa riforma ci avremmo anche inserito che il prossimo premier deve essere alto, non so quanto è alto Renzi, 1,80 m, ce deve avere qualche neo e deve assomigliare a Mr. Bean. Così avevamo compiuto l'opera precisa. Questa è Paola Taverna, senatrice del Movimento 5 Stelle, che in pratica ha detto che Renzi assomiglia a Mr. Bean e c'ha pure i nei come Mr. Bean. Effettivamente un pochino a Mr. Bean ci assomiglia, non è la prima volta che si fa questo paragone. Comunque, cari italiani, mancano 9 giorni, anzi 8 sveglie all'alba e poi cominciano le mie ferie. Questa è l'unica notizia positiva con cui vorrei partire. Peter Bescapè dice che ne mancano alle 3 alle 3. Giorgio De Luca mi guarda con una faccia, come dire, brutti figli di... non vai in vacanza, Giorgino? Dopo, non si sa, è un po' come le riforme. Dopo, poi, slittano le vacanze di Giorgio De Luca, che è qui in redazione con noi, il nostro Peter Bescapè in regia. E allora, slittano, come slittano le riforme? Io non ci credevo. Ma come? Ieri era l'inizio della settimana decisiva. Oggi già slittano le riforme. Renzi ha fatto il nuovo cronoprogramma. Entro l'anno la legge elettorale, entro quest'anno, e poi il Senato e il referendum. E via. Dai, apriamo il Parlamento. A un caffè ci può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Parlamento. A tutti quanti, anche a Paolo Del Debbio, che ritrovo con grandissimo piacere. Del Debbio, come stai? Buongiorno, Milano. Dove sei? In vacanza, ovviamente. No, sono a Milano. E vabbè, ma in vacanza comunque. Ma no, ma che vacanza a Milano, dai. Sì, effettivamente non è un luogo, fa un po' schifo per le vacanze. Dove vai in vacanza? Io andrò all'estero, andrò in Canada quest'anno, in Canada. Bene. Va bene. A tagliare la legna? A tagliare i cedri. Ci sono i cedri, che no, i cedri ci sono in Libano. Sono più in Libano. Ma lascia stare. Non me ne intendo. Devo andare a fare qualche lezione di botanica e cose del genere. Intendevo gli aceri. Comunque non li taglierò, sì, perché sì. Insomma, sono delle belle piante. Perché devi tagliarle? Sì. A fare legna. Vabbè, andremo a fare legna, va bene. Allora, saluto anche Aurora Lussana, che torna. Cara Aurora, quante te ne devo dire oggi? Buongiorno. Buongiorno Milano, come sempre un caro saluto agli amici di Radio Padania Libera. Ah no, Radio 24, la seconda radio più amata d'Italia. Lapsus, così è proprio naturale, è venuto. Salutiamo gli amici di Radio Padania. Paolo Del Debbio, ascolti Radio Padania? Io ogni tanto, oggi stavo arrivando alle 5:30. Sì, qualche volta ci sono anche stato. Oggi stavo arrivando alle 5:30, c'era una vecchietta, lo dico con affetto, telefonava da Como, piena Padania, ha detto: voglio i magistrati padani, eletti dal popolo e padani, magistrati che conoscano la Padania, i magistrati che sistemino le cose, magistrati padani, mica questi magistrati magari con la responsabilità civile, ecco, ci accontentiamo di quello, mica questi magistrati che vabbè, insomma, ma no, adesso ce ne sono di bravi magistrati. Ci arriviamo tra poco ai magistrati. Intanto Del Debbio. Allora, sì. Queste riforme, partiamo da qui, da ogni giorno per gli ultimi un anno e mezzo, partiamo da qui, le riforme. L'esigenza di fare riforme c'è perché non si riesce a farle e quindi bisogna riformare per farle in modo più veloce. Questo è l'esempio, questa è la spiegazione del perché in Italia ci vogliono le riforme. Sì. Perché uno che governa non riesce a farle. Infatti, la questione è questa. Ma chi sono? Ci sono questi frenatori? Adesso Renzi un pochino l'ha fatta quando ha detto i senatori sono attaccati all'indennità. Questo è un colpo basso. Che cosa c'è di peggio che servire in pasto agli italiani l'idea di un politico attaccato alla poltrona per lo stipendio? Vabbè, è la verità. È la verità un po' questa. Ma tanto la riforma entrerà in vigore dalla prossima legislatura, semmai. Quando ero in onda, quanti me l'hanno detto, insomma, dai, ma figurati se uno vota, come si fa a votarla, poi che andiamo a fare, cioè a me me l'hanno detto anche persone. L'hanno detto. Ma anche se è dalla prossima legislatura. Ma non è che l'ha detto a me, lo dicono a tutti. Sì, appunto, la prossima legislatura, certo, rimangono a casa. Certo, vabbè, potrebbero fare altro. In 5 anni uno mette via dei soldi, matura il vitalizio, magari spera di riposizionarsi alla Camera. Comunque, insomma, sono veramente. Alcuni sono terrorizzati. Alcuni sono terrorizzati. È un po' così. E questa idea, Aurora, Milan vivono in un mondo per un po' di anni, ma la maggior parte. E non vogliono uscirne. Artificiale. Sì. No, dove lo scriverò pulito sul Corriere qualche tempo fa. Non saranno neanche. Alcuni dice gli toccherà comprare i giornali e leggere e non sapranno fare perché hanno sempre letto la rassegna stampa tutta la vita. E non avranno le segretarie che gli prenotano il barbiere. Non avrà, insomma, la mattina ti alzi, devi fare le tue robe. È un po' un casino, effettivamente. Dice devo prenotare un treno, ma come si fa? Secondo me dice va messo un assistente sociale. Si potrebbe fare un assistente, Aurora, si potrebbe fare l'assistente di reinserimento per l'ex parlamentare. Beh, c'è l'assegno di L'assegno c'è di reinserimento. Sì. Siamo con l'assistente di reinserimento. E vabbè, magari con quell'assegno uno si paga appunto. Sei mesi, no? Ad esempio, un giorno il signor Nogli fa la rassegna, un giorno il signor Nogli prepara il caffè, quell'altro si prepara. Cioè, si potrebbe fare. Morbido, un reinserimento morbido. Sì, esatto, in modo da riprendere contatto con la realtà. Aurora, si potrebbe fare, no? Un po' come i carcerati, però in senso positivo, cioè non è che si possono ributtare nella società così a tornare a lavorare. No, perché ridi, Aurora? Perché ridi? No, sì, no. Beh, qualcuno sì, ne ha sicuramente bisogno. Insomma, ho la sensazione però che, insomma, Renzi sia un po' come, te la ricordi, Shahrazad, Le Mille e Una Notte, che ogni notte raccontava una nuova novella così. Per incantare il suo sposo, insomma, il. E qual è l'ultima che ha raccontato, secondo te? Ma sì, no, vabbè, ma lui l'ha detto, bisogna di 1000 giorni, no? Sì. 1000 giorni, 1000 notti, ma sì, così ce la racconta ogni giorno, un grande incantatore, e va bene, adesso ci ha raccontato, insomma, abbiamo tempo fino al 2014 tutto, no, per le riforme, sì. Ma ripeto, ci ha sedotto tutti, Renzi, buon per lui, e non vuole andare su un'Europa con l'abolizione del Senato, poi tra l'altro. Sì, l'abolizione del Senato, sì, ma poi vuole andare, cioè arriverà forse in Europa col primo sì al Senato per l'abolizione del Senato, poi lo ricordiamo tutti i giorni, ma anche oggi ci vuole il sì alla Camera, poi deve ripassare al Senato, poi ripassare alla Camera, poi avere un credo referente. Che la vera opposizione al governo Renzi la stia facendo l'economia, i dati economici emersi, eccola, ieri. Il PIL che non cresce, il record di vedi che è un campione del mondo, no? Un po' come la Germania, campione del mondo di debito pubblico. E vabbè, adesso tutto di Renzi, tutto il debito pubblico è di Renzi, l'ha fatto Renzi. Ma no, ma ho capito, ma lui è bravissimo. Poi ci titoliamo come Padania, poveri ma belli, no? Sì. Il governo più giovane e carino della storia repubblicana, infila però un record negativo dietro l'altro. Ma sì, vabbè, ma dai, adesso dire che il debito pubblico di 2000 miliardi è di Renzi è un po' adesso così, vabbè, l'ultimo che arriva si accolla tutto sul groppone. Temo che non abbia idea neanche di come si possa creare un po' di. No, la cosa effettivamente che ci inchioda, ma ripeto, adesso al di là di tutto, parlo del debito, non è colpa né di Renzi, è l'ultimo che arriva, è che leggere che ci sono 6 milioni di poveri, secondo l'Istat, quando erano 3 milioni qualche anno fa, è questo altro che riforme del Senato, altro che. No, però scusa, molti anni fa, perché molti. Sono vari anni che siamo tra 6 e 7 ma chiaro. Poveri. Quindi non è che è un dato di quest'anno, sono vari anni, questi poveri hanno attraversato tutti i governi della Repubblica e quindi voglio dire gli ultimi perlomeno e quindi ce n'è per tutti. Dopodiché che Renzi annunci molto eccetera eccetera, lo sanno ragione. Dopodiché però che nessuno nessuno, escluso la riforma Biagi, nessuno. Si è riuscito a fare le riforme, perché poi quando l'hanno fatta le hanno bocciate il referendum. E questo dire, è vero. È un dato, va bene. Certo, ma pure Draghi ieri, se riscopo io, ho fatto la battuta, si è svegliato tedesco. In realtà si è svegliato corretto a dire basta questa cosa della flessibilità, fate le riforme. Draghi, che è italiano, anche se presidente della Banca Centrale Europea. Quindi, voglio dire, è un problema. E le riforme vanno fatte perché o si elimina una Camera o si fa... che il Premier c'ha più poteri, o si fa che il Parlamento lavora in modo diverso, che guadagna meno, tra l'altro lavora di più, oppure le riforme non le fa neanche se torna giù, non lo so, altro esce la sabbia, come dicevo. Esatto. Neanche se viene sul bambino. No, certo. Intanto, a proposito di riforme, sentite Calderoli come... Ma ti pare che uno... Sì, Calderoli ha detto del braccio, vabbè. No. Ti pare che uno, cioè, dica... che un Chiti possa bloccare l'interno di un partito perché sennò, oppure che Mineo. Dai, no, fa bene Renzi, dice, quindi. Ma deve andare avanti, dopodiché ha difficoltà e lo so bene, però questa roba io l'ho portata a casa, ci fa una figura del cioccolataio, diciamo così, del cioccolataio. Allora, sentite Calderoli sulle riforme come ironizza su se stesso, E di coraggio ce n'è voluto veramente tanto a nominare me come relatore di maggioranza, perché era un po' come dare una pistola carica in mano a un serial killer e sperare che non facesse una strage. Insomma, Aurora Lussana, ma che vuol dire questa frase di Calderoli? Vabbè, ma dai, Calderoli, Calderoli. È suggestivo, evocativo. Serial killer la pistola. Vabbè, allora parliamo dei magistrati. Allora, devo farti due questioni. Dai, ho detto una cazzata. Delle cacciate, allora, ci sono due questioni, cara Aurora Lussana. Due. La prima riguarda Maroni. Che succede? La procura di Busto Arsizio, sai quella procura lì che Padana. Sta indagando su Padania, sì. Procura i Padana. Giudici, insomma, i giudici hanno cognomi un po' più esotici, non proprio Padani. Allora, è una procura straordinaria che sta indagando, come sapete, sulla corruzione internazionale, compravendita di aerei, non sbaglio, vendevamo gli aerei in India, adesso non li vendiamo più, quelle robe lì. Ma ci sono due nomine, contestate. Ti ricordi, avevano in qualche modo fatto credere un po' a tutti che fosse arrivata una maxi tangente di 10 milioni di euro da lì, più saputo niente. E ieri hanno deciso di indagare Maroni per due consulenze che avrebbe caldeggiato per due sue collaboratrici al Ministero dell'Interno, quindi sono incarichi fiduciari. Quindi insomma, giusto solo che l'inchiesta su Expo ce l'ha in mano, se non erro, la Procura di Milano, giusto? Infatti non ci sono leghisti coinvolti nei appalti e non stanno indagando Maroni. La procura ho capito, però ci sono queste due nomine, esatto. Contestate. Ci sono queste due. Però oggi Repubblica dice Repubblica dice che non sono solo due, ha messo i suoi ex amici cantanti all'ospedale di Treviglio, uno di qua, uno di là, insomma, un po' l'antico vezzo di metterli, sistemare i propri. Io so che nella regione Lombardia, piuttosto che Piemonte, piuttosto che Veneto, piuttosto che Emilia, Lazio, insomma, esistono questi incarichi fiduciari, se in politica esistono contratti su base fiduciaria affinché esistano, che vengano usati, se poi si decide che non sono più legittimi, va bene, cancelliamoli. L'altra questione, adesso non devi fare l'avvocato di difensore di Maroni, si vedrà. Poi l'altra questione che mi hanno segnalato, intatti me l'ha segnalata anche la tua amica Rossella Brescia, che ci segue sempre, ci segue anche su Twitter, ha detto la questione che è uscita la scorsa settimana su Radio Padania, ma è vera questa cosa che prendete le frequenze un po' in giro per l'Italia e poi le rivendete perché siete una radio comunitaria, potete occupare le frequenze e poi le rivendete e fate dei soldi? Saluto gli amici di Radio Padania, la radio migliore d'Italia. Allora, non sono il direttore della radio, so solo che insomma la radio vive anche di contributi e donazioni che arrivano dai radioascoltatori, magari arriva 5-10 euro perché insomma c'è la gente che ci ascolta. Sai, di solito non sono finanzieri che incrocia la City di Londra quelli che ci ascoltano, quindi insomma viviamo anche di volontari. Ci sono tantissimi volontari che offrono il loro tempo alla radio. È una radio comunitaria da più di un decennio. Sì. E fate un esposto, la Rossella Brescia fra una piroetta e l'altra, se teme che ci siano degli illeciti. No, ma nel senso è una norma che ha previsto che Radio Padania fosse una legge comunitaria, certo, che è legittima. Questa norma leghista Caparini all'epoca del governo Berlusconi. Ma poi cosa c'entra una piroetta? Dai, lo dici come se fosse è stata una straordinaria. Lei, a parte che è di una bellezza straordinaria, vabbè, però, anche un artista bravo, no, rispetto a quello che vedi alla televisione come ballerine, poverina, è una brava artista, secondo me. Eccolo lì, vabbè. Sì, sì, sì, sì. Aurora Lussana è così, caro Paolo Del Debbio. Dovevo fare queste due domande, ce l'avevo qua da qualche giorno. Ho fatto il giornalista, bene? Sul gozzo. Ce l'avevo sul gozzo, dovevo fare il giornalista, incastrare Aurora, che però si difende con le unghie e con i denti, queste cose qua. 24 mattino. Alessandro, scusami, io sto vedendo in onda e ho sentito dall'ex sindaco di Bari che i romani non si ribellano per la zozzeria di Roma. Però l'ex sindaco di Bari non sa che i sindaci di Roma ai romani non li ascoltano. Il 16 si pagano le tasse, si svuotano purtroppo ormai le casse. C'è l'IRPEF con in più le addizionali, che sono dei proiettili mortali. Ma c'è un pensiero fisso che ci prostra e chi poi li papperà alla faccia nostra. Alino, sono Vladimir, capo di campo nomadi di via Caorzana, Piacenza. Ti dico solo una cosa, Alino, dammi un crodino. Sono il Crook, non il Khabib, e anch'io ascolto Alessandro Milan. Vabbè, insomma, è l'ora dei matti, bisognerebbe il Paolo Del Debbio. Sei multietnico. Troppo multietnico. Eccoli, è vero, cosa dovrei fare? Dovrei fare subito, denunciare. Io sono per la biodiversità, però qui adesso esageriamo un po'. No, dai, su, guarda. Aurora Lussana. Pensa un po', Lussana. Ma tu. Sì, ma Aurora Lussana. Non ti mantenere in una rigidezza. No, serve un rigor viventis. Rigor viventis non è male. Cos'è questa Del Debbio? È in un rigor viventis. Perché quelli che da vivo stanno con rigor mortis, sempre, capito? Sempre sulle spine. Sempre sulle spine. Allora, però vi voglio parlare di una cosa che mi ha sconvolto, visto che ho qua due illustri giornalisti, direttori, eccetera. Del Debbio, Daniela Santanchè che con Paola Ferrari vuole comprare l'Unità. Io non ci dormo da due giorni. Ma che cosa? Ma che vuol dire questa cosa? Non lo so. Si vede che è gramsciana. È gramsciana, dice Aurora Lussana. Sì, vabbè. Ci vedono il business probabilmente. Ma ho capito, ma voglio dire, cioè, è vero che ormai destra, sinistra, non c'è più niente, tutto frantumato, tutto business, mischiato. Ma diciamo che è un business chic, ecco, diciamo, cioè comprare un giornale di sinistra da due persone notoriamente di destra, insomma, no? Ci vede che fa chic. E che ne so, glielo regalare non glielo regalano, quindi hanno fatto un'offerta. E avranno fatto dei conti, no? Immagino non sia solo. Ma sì, ma c'è una questione. Ma oggi sull'Unità risponde il CDR, che è la rappresentanza sindacale. No, pitonesse, gufi e sciacalli. Cioè, subito. Ma ti pare normale che possa entrare nel giornale, appunto, fondato da Gramsci? Cioè, voglio dire, ma nel senso, se ancora i simboli hanno un senso, poi dopodiché magari no. Si vede che io non so cosa dire, non ci capisco niente, francamente non mi interessa neanche. Ecco, perfetto, va bene, no, chiudiamola così. Aurora, visto che non No, nel senso che cosa devo stare a pensare? Si vede che hanno pensato o che ci fanno dei soldi o che è un'operazione che gli fa bene dal punto di vista dell'immagine, o che probabilmente ormai con Renzi vogliono fare un accordo, visto che fa gli accordi elettorali e quegli altri, o tutte e tre. O tutte e tre. No, vabbè, la strana coppia che vuole l'unità. Oggi su tutti i giornali c'è mezza pagina dedicata a questo. Allora, Lussana, che vogliamo passare al PD tutte e due. No, no, non credo che si voglia iscrivere al PD, questo, questo non credo. E qui ci saranno altre tre motivazioni. Ma sì. Aurora, no, saranno gramsciane, non so, avranno fatto studi, non lo so. Ma che gramsciane. Modernità liquida di Zygmunt Bauman, basta. Ecco, vabbè. Si vogliono adeguare ai tempi, si vogliono adeguare ai tempi. Vabbè, niente, no, no, staremo a vedere questa cosa qua. Invece vi voglio far sentire il sindaco di Napoli, De Magistris, perché ha rilanciato un dibattito che da settembre sarà un tema molto, molto sentito e molto dibattuto, immagino. Vale a dire, De Magistris ha officiato, cosa si può dire, ha registrato il primo matrimonio tra omosessuali a Napoli. Aveva detto lo faremo nel comune, e così ha fatto. Certe volte si pensano che ci sono, diciamo, gli ostacoli alle libertà. Alcune volte è così, ma al comune di Napoli posso dire che su questo tema c'è stata una condivisione unanime. Hanno lavorato tutti, dai dirigenti ai funzionari, agli impiegati, allo staff, hanno creduto tutti in questo risultato, segno che Napoli è città dei diritti e delle libertà. Allora, la registrazione del matrimonio, ovviamente del debbio, cos'è, una cosa simbolica, perché ovviamente per lo Stato non esiste il matrimonio tra persone dello stesso sesso. L'hanno fatto anche in altri comuni, però, no? Prima di lì anche. No, no, ma è chiaro. Ma che cos'è, appunto, lo dico brutalmente, una esibizione, una pagliacciata, oppure è una battaglia giusta e sacrosanta? Ma forse, sai... E tutte e due le cose, soggettivamente, nel senso di De Magistris, che non lo so cos'è, perché io lo conosco poco, quel personaggio lì, non mi ispira tutto sto granché, e quindi non saprei. Dal punto di vista oggettivo, che queste cose vengano fatte, diciamo, in luoghi pubblici e così, probabilmente lo incentiva a dire, dai, ma muoviamoci, cioè, qualcosa fate in un senso e in un altro, ma insomma qualche riconoscimento legale datelo, insomma, no? E quindi penso che sia così. Sì, sono delle iniziative per cercare di sbloccare una situazione un po' incagliata. Come si diceva una volta, sono degli incentivi a fare qualcosa. Aurora, che ti pare? Beh, la posizione della Lega è abbastanza dura su questa, per carità. Mai matrimonio tra persone dello stesso sesso? Sì, no, figurati, i diritti individuali sono intangibili, sono prepolitici, figurati. Poi io di mio sono per l'amore panico, orgiastico, figurati te se deve essere fino a discriminazione. L'amore orgiastico. Cos'è l'amore orgiastico? Ma perché sono per l'autodeterminazione dei popoli e per l'autodeterminazione degli individui. Ho capito, sei per l'amore orgiastico. No, ma scusa, è un po' di sano paganesimo. Però il discorso qual è? Che nella comunità in cui io voglio vivere vorrei che venissero privilegiate, sostenute con delle scelte economiche ben precise le famiglie. No, quelle lì, le famiglie tradizionali. Hanno bisogno di un sostegno. Quindi il dovere della politica è allocare le risorse. Io ho 100 euro, devo deciderlo se darlo a una famiglia con un figlio. Deve andare la famiglia tradizionale. Sì, perché c'è un alloggio popolare da destinare. Scusa, ma io preferisco destinarlo prioritariamente a una famiglia tradizionale. Però sei per l'amore orgiastico, questo è del debbio, sì, ce la mettiamo. Ragazzi, ma lo Stato mi deve disciplinare la mia volta sola, dai. Del debbio, non prendere in giro la parlata di Aurora Lussana. No, ma è bravo, è gramsciano anche lui, vedi? Ecco, gramsciano. Dai, Aurora, è tempo della ricetta. Attenzione, è tempo della ricetta di Aurora Lussana. Stasera si salta perché con la Padania andiamo qua a Milano, in zona Porta Venezia, assediata da presunti profughi. Vogliamo vedere cosa succede, perché i commercianti hanno invocato le ronde. Eccola, ha capito, e non mangiate. Stasera no, bisogna andare lì e documentare quello che sta avvenendo nella Milano. Un kebab te lo farai, un kebab. Il kebab con la polenta, va bene? Il kebab con la polenta, stasera kebab con la polenta. Oh, vabbè. Mamma, un ragazzi, disastro. Che deriva posti di logica. Saluta Aurora Lussana e Paolo Del Debbio, alla prossima.

per trattare quello che sta succedendo in Medio Oriente. Tra l'altro, le ultime notizie avete sentito, dice che il governo israeliano ha accettato la proposta di cessate il fuoco del governo egiziano, mentre l'ala armata di Hamas ha respinto questa proposta di cessate il fuoco. Io comunque, per affrontare questo argomento, ho chiamato due ospiti che sono schierati su posizioni diametralmente opposte e che mi permetteranno, ci diranno questo. Io sintetizzo quello che immagino siano le loro posizioni, poi articoleranno meglio. Con noi c'è David Parenzo, che saluto. Buongiorno David, eccoci qua. Buongiorno. Allora, David Parenzo, dico io, ci racconterà che Hamas è un'organizzazione terroristica che vuole come obiettivo la cancellazione di Israele, che quindi lancia dalla striscia di Gaza razzi sulle città israeliane, razzi che non vanno fortunatamente a bersaglio perché Israele li intercetta, e quindi Israele va a colpire a Gaza le basi militari di Hamas, eliminando anche i suoi capi. Invece Luisa Morgantini, buongiorno Luisa Morgantini. Buongiorno, benvenuta. Ci dirà, immagino, che Israele da decenni occupa territori, prima Gaza poi lasciata, poi territori palestinesi, e questa occupazione, privazione di diritti impedisce che la pace possa affermarsi e rischia anche di degenerare in forme di far creare resistenze estreme. E poi i bombardamenti di Israele sono indiscriminati, visto che si contano 180 morti e migliaia di feriti tra i palestinesi. Allora, Davide, intanto ho riassunto più o meno bene quella che è la tua posizione su questa vicenda? Sì, siccome l'hai riassunta bene, e quindi non vorrei, come dire, ripetere ciò che hai detto, provo a fare un passo in avanti, perché lo schema che tu giustamente hai dato della mia posizione, credo anche quella di Luisa Morgantini, ma è chiarissima. Facciamo allora un passo in avanti. Quali sono le pedine sul campo e qual è la situazione? Chi vuole la pace e chi vuole la guerra? Anche questo è uno schema assurdo, non si può dire chi vuole la pace. Guarda, Luisa Morgantini dirà che Israele è quello che occupa, e io potrei dire, ma non perché ho parenti che vivono in Israele, non perché sono ebreo, perché un conto è essere ebreo, un conto è essere israeliano, non perché ritengo che le ragioni siano tutte dalla parte di Israele, cosa che peraltro non ho mai detto né sostenuto. Ma da una parte c'è un governo, che è quello dell'autorità nazionale palestinese, che oggi è in mano a un'organizzazione che non detta da Parenzo, ma voglio dire detta dagli Stati Uniti, detta dalla Gran Bretagna, detta anche dagli organismi internazionali, è un'organizzazione terroristica. Israele fino ad oggi con quell'organizzazione ha dialogato, perché non è che Israele dice siccome c'è Hamas io con questi non dialogo, questo è il punto di partenza. Per dirla in modo spiccio e non come la direi alla Zanzara, se improvvisamente la Repubblica di San Marino finisce nelle mani di Totò Riina con libere elezioni, e il governo di Totò Riina iniziasse a lanciare dei missili contro Roma, che sì, cosa accadrebbe? Lo Stato, come prima cosa, direbbe: beh, noi dobbiamo dialogare comunque, perché Totò Riina è stato eletto dagli amici di San Marino. Quindi una prima tratta, come dire, lo riconosce come interlocutore. Israele, fuori di metafora, riconosce Hamas come interlocutore. Certo, Hamas ha nella sua carta la distruzione dello Stato di Israele, e già questo dovrebbe essere, come dire, un elemento ostativo per dialogare con qualcuno che ti vuol distruggere. Ma nonostante questo, Israele riconosce che quello è un interlocutore. Nel momento in cui questi partono dei razzi, come tu giustamente hai sintetizzato, verso Israele, è chiaro che hanno scatenato una guerra. In verità non è quella che Israele sta facendo una guerra contro mm-hmm. i palestinesi, ma contro Hamas, guerra per proteggere i propri cittadini, no? Per proteggere anche quei palestinesi che vivono in Israele. Una guerra, certo, sì, certo che ce ne sono moltissimi. Una guerra di difesa. Però insomma, già questa distinzione, Luisa Morgantini, questa distinzione tra chi vuole la pace e chi invece vuole cancellare un'entità costituita che è lo Stato di Israele, le piace, Morgantini? Io trovo queste parole di Davide veramente quasi esilarante nella sua tragedia, perché Davide, per favore, le cose che Alessandro riassumeva della mia posizione non sono le mie posizioni, sono quello che le Nazioni Unite, qualsiasi rapporto scritto dalle Nazioni Unite, qualsiasi dichiarazione dell'Unione Europea, persino degli Stati Uniti, dicono: quel territorio è un territorio occupato dal 1967. Intanto non è più occupato. Come? Beh, Gaza non è più occupata, sì, più territori palestinesi. Davide, per favore, ti ritengo una persona intelligente. La striscia di Gaza, Per favore non raccontiamo bugie. La striscia di Gaza, scusa, mi fai, io non ti ho interrotto. Sì, vabbè, aspetta Davide, facciamo parlare Luisa Morgantini. Davide, sì. Non ti ho interrotto. Si riferiva Morgantini, credo, alla striscia di Gaza, quale Israele. Esattamente, ma la striscia di Gaza non è vero che non è occupata all'interno. Sì. Ma nella striscia di Gaza, a partire dal 2007, Erez, il checkpoint che va verso Israele, sì, è completamente chiuso. Sì, certo. Non solo è chiuso Erez, è chiuso anche Rafa da parte degli egiziani, per timore che i Gazawi scappino da quella sede, da quella prigione a cielo aperto in cui si tengono 1.700.000 palestinesi. Non solo, i Gazawi sono chiusi dal cielo, dalla terra e dal mare. Persino oggi, per esempio, qualsiasi bombardamento, qualsiasi attacco in qualsiasi altro paese, le persone scappavano, se ne andavano, i civili non vogliono morire. Lì però, Luisa Morgantini, perdoni, la questione per favore, no, per favore, vorrei terminare. No, ma la questione è una questione geografica. I Gazawi non possono neppure fuggire, sono chiusi come animali dentro un cage. Hamas, per esempio, io non difendo assolutamente, Davide lo sa, ho sempre criticato durante anche i periodi degli attacchi kamikaze qualsiasi azione che sia fatta contro la legalità internazionale, quindi non sono e non appoggio in nessun modo le politiche di gettare missili sulla popolazione, sì, civile, o di fare attentati civili come sono stati fatti fino al 2005. Ma per favore, Hamas, per esempio, con il governo di unità nazionale, fatto insieme ai palestinesi della Cisgiordania, per esempio, non c'entra Davide nulla. Davide parlava dell'autorità palestinese. Gaza è spaccata rispetto all'autorità palestinese che è nella Cisgiordania. Allora vorrei dire semplicemente questo: bisogna fermare i bombardamenti, bisogna fermare i rocket su Israele. Ma smettiamola col dire che sono tutti effetti paralleli. No, ma è chiaro, però Netanyahu farà degli accordi, perché per esempio, sì, discuterà con il gabinetto dei ministri oggi se accettare o meno. L'ha già accettato. È notizia di oggi. Ha già accettato il cessate il fuoco egiziano. Però sì, c'è anche la riunione. Hamas non è vero che non accetterà la tregua, sarà costretto ad accettarla. Il problema è su quali basi. Va bene, allora facciamo interventi, Morgantini, facciamo interventi un po' più sintetici, così facciamo botta e risposta. Però la questione, insomma, respinge Luisa Morgantini questa idea. Intanto si dice che è una critica, che guarda che anche all'interno della comunità ebraica e all'interno dello Stato di Israele c'è questa critica, cioè se parte un razzo dalla striscia di Gaza e viene intercettato, è legittimo andare a colpire anche magari costruzioni di civili dove si dice Hamas nasconde le armi, dove i miliziani si nascondono, ma è legittimo o di fronte ai 180 morti che ci sono e alla fuga di persone che effettivamente non possono uscire dalla striscia di Gaza, come si pone un cittadino, o in questo caso israeliano, o una persona di religione ebraica come te? Guarda, adesso anche la comunità ebraica ha posizioni diverse, io qui non parlo a nome della comunità ebraica, parlo da giornalista, da cittadino e da persona che ha parenti che la vivono e che la pensano rispetto alla guerra in modo diverso, perché c'è chi dice che devono immediatamente interrompersi le ostilità e chi invece dice, anche della mia famiglia che vive lì, c'è un dibattito, perché Israele è una democrazia, è un posto dove si discute, è un posto dove i capi di Stato e di governo vengono messi sotto inchiesta, ed è una libera democrazia, è l'unico avamposto che l'Occidente ha in Medio Oriente. La questione però, per fare un passo in avanti, perché altrimenti torniamo a litigare su queste vicende, per dare anche qualche elemento in più a chi ascolta, oggi nella striscia di Gaza Hamas stesso, l'organizzazione terroristica di Hamas, non ha più alcun controllo del territorio, perché le brigate Zedin al-Qassam, quelle che hanno, per dirti, oggi presentato, sì, la proposta, l'ala armata, sono l'ala armata estrema fuoriuscita da Hamas, di cui Hamas si è servita per anni, perché il problema è tutto politico interno al popolo palestinese. c'è una guerra interna di leadership all'interno del popolo palestinese. Allora a me fa piacere che Luisa Morgantini, che è da sempre irenica, che è donna in nero, che è per la pace, la pace, la pace, la pace, in tutti questi anni però io ho visto sempre la parola pace pronunciata ogni volta che Israele rispondeva ad un attacco da parte delle brigate estremiste di Hamas. Non ho mai visto ad esempio Luisa Morgantini impegnata lì nei periodi di tregua ad andare da questi qui e cercare di capire da questi leader che ora governano la Striscia di Gaza perché hanno lasciato mani basse nel territorio, il controllo del territorio a questi terroristi. Ripeto, la questione è tutta lì, cioè è di politica interna anche rispetto alla leadership palestinese. Sì. Io vorrei, Luisa Morgantini, prima di andare in pubblicità, poi riprendiamo. Lei è d'accordo quando si dice, sei d'accordo quando si dice che è uno squilibrio mettere sullo stesso piano lo Stato di Israele, uno Stato democratico e Hamas? Perché poi la guerra, che è un'organizzazione. Visto che hai citato le Nazioni Unite, l'Unione Europea. Ho capito la questione, non si tratta qui di Hamas, si tratta di uno Stato che non c'è ancora, che è quello palestinese, che però tutta la comunità internazionale dice che deve esserci. C'è un Hamas per il quale io non condivido praticamente nulla, non solo le questioni politiche, anche quelle un movimento religioso, così come non condivido la quantità di ortodossi religiosi che sono nel governo di Netanyahu, così come la quantità di coloni, quelli che costruiscono le colonie dentro i territori occupati palestinesi, che sono nel governo di Netanyahu. Non condivido. Allora, Hamas e l'autorità palestinese avevano trovato un accordo, che era quello del governo di unità nazionale. Sulla base di che cosa? Sulla base del riconoscimento degli accordi di Oslo, che guarda caso riconoscono anche, siccome dicono Stato di Palestina sui territori del 67, di fatto riconoscono anche l'esistenza dello Stato di Israele fino ai territori del 67. Quindi noi eravamo in una situazione in cui faticosamente i palestinesi riuscivano a ritrovare unità. Ed è lì che scoppia di nuovo il caso, la responsabilità atroce di tre ragazzi coloni assassinati, atroce. Sì, e la ritorsione, non... la ritorsione di un ragazzo. Non, scusatemi, ma la ritorsione non è soltanto... Sì, però quella, perdonami Luisa, perdonami. Luisa, ma quella è la scintilla, cioè purtroppo tutte le guerre hanno bisogno di un pretesto. Ma non è una guerra, scusate, non è una guerra, non è una perché lì c'è... Non è una guerra, è una occupazione militare. Io vengo dalla Repubblica dell'Ossola, mio padre ha fatto il partigiano, pur essendo io per la non violenza. Cioè Hamas non saranno mica dei partigiani. Perché non si capisce la cosa di fondo? Che lì c'è un popolo, palestinese che fa un... Ma questa è la questione di occupazione. Però quando tu dici, ma voglio però fermarmi per riprendere dopo la pubblicità, ci raggiunge anche il vice ministro agli esteri, Benedetto Della Vedova, quando dici Hamas, non è il problema tra Hamas e Israele, ma la guerra o come quello che lo definiamo, quello che sta succedendo, è tra questi due enti in questo momento, proprio perché contro l'autorità nazionale palestinese non c'è una guerra, non, nel senso, in questo momento è contro Hamas, e quindi in questo sono Hamas che lanciano i razzi, non è che è l'autorità nazionale palestinese, ma è Hamas appunto, e Israele vede questo di principio. Però siccome molte critiche arrivano, e da qui ripartiamo anche da David Parenzo, a dire che guerra è quella, zero morti da una parte e 180, 1000 oltre feriti e una distruzione di abitazioni notevole nella striscia di Gaza. 24 mattino. Abbiamo anche la mail, 24 mattino e radio24.it. Siamo con Luisa Morgantini e David Parenzo. Voglio salutare, prima devo ancora un paio di risposte da David che erano rimaste indietro prima della pubblicità, però fatemi salutare il vice ministro agli esteri Benedetto Della Vedova. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno e grazie per essere con noi. David Parenzo, sono subito da lei ovviamente, Della Vedova. Le due questioni che erano rimaste indietro sono la sproporzione di vittime da una parte e dall'altra, e poi che... Certo, si può spiegare banalmente con la superiorità militare israeliana, e però anche la questione delle colonie. Non credi, dice Luisa Morgantini, che questa occupazione sia poi al fondo il problema di tutto? Passo telegrafico. Sulle colonie, ha ragione della Morgantini, spesso i governi, alcuni governi del passato, hanno usato le colonie come merce di scambio e di ricatto per arrivare poi agli accordi che ci sono stati. cioè sono stati usati militari, ma questo lo dicono gli intellettuali israeliani, le hanno detto esponenti del governo di Israele, che spesso la strategia negli anni passati era proprio quella di dire vabbè, allora noi ci ritiriamo, e usavano questi avamposti anche per, come dire, come merce di scambio della trattativa. Su questo non c'è ombra di dubbio, tant'è che molti di questi coloni qui sono anche un problema per Israele, perché non fanno il servizio militare essendo ultra ortodossi, e per lo Stato di Israele sono pure un costo. Quindi il dibattito nella libera democrazia occidentale israeliana rispetto a questo c'è. Dopodiché io non posso tollerare che la figlia di partigiani, Luisa Morgantini, mi paragoni il governo di Hamas, la guerra della resistenza e quello che è avvenuto in Italia, perché questo qui davvero non ci siamo. La sproporzione c'è, non c'è nei fatti, perché se non ci fosse quel famoso scudo ultratecnologico che il governo israeliano e gli scienziati israeliani hanno progettato, ci sarebbero i morti anche lì. A Tel Aviv non ci sarebbe più Tel Aviv, probabilmente, con tutti i razzi che sono caduti da Hamas verso Tel Aviv e Gerusalemme. Quindi soltanto grazie all'uso della tecnologia e della scienza, per fortuna, si è evitata la strage. Sproporzione, nessuna sproporzione, perché se Israele davvero volesse distruggere l'autorità nazionale palestinese e distruggere la striscia di Gaza, ma voglio dire, ma sarebbe entrata non come è entrata ora. La sproporzione c'è nei numeri che registriamo in questo momento. Ma nei numeri, ma per forza, perché voglio dire, se la tecnica, guarda, la differenza sta tutta là. Mentre Israele, con quello scudo, difende gli arabi israeliani che lavorano in Israele e i palestinesi che vivono in Israele, Hamas difende soltanto i suoi leader asserragliati dentro i bunker, leader spregiudicati che usano loro sì i bambini per difendere il loro potere. Guarda, io voglio davvero chiuderti semplicemente ricordando la grandissima Golda Meir, che per me è stato uno dei più grandi capi di ex primo di Stato, sì. La quale diceva: noi perdoneremo ai palestinesi per aver ucciso i nostri figli, noi li perdoneremo, ma non perdoneremo mai i palestinesi per averci fatto uccidere i loro di figli. L'uso dei bambini che Hamas e il governo arabo palestinese sta facendo, quello è veramente drammatico, nel nascondere le armi dentro gli asili. Allora, il governo palestinese, tra l'altro, c'è un presidente, il presidente Abu Mazen, notizia di poche fa, ha accolto con soddisfazione la proposta egiziana di cessate il fuoco. La guerra è tutta interna, è tutta interna al mondo. È quello che tu dicevi, prima. Tra poco tornerò da Luisa Morgantini, ma prima Benedetto Della Vedova, eccoci qua. Allora, il nostro ministro degli esteri, Federica Mogherini, è proprio oggi a Tel Aviv. Intanto, come accoglie lei la notizia del cessate il fuoco accettato dal governo israeliano, pare da Abu Mazen, ma purtroppo l'ala militare di Hamas in questo momento rigetta questo accordo. E quindi cosa ci dobbiamo aspettare? Ma adesso vediamo effettivamente quali saranno gli esiti nelle prossime mezze ore. Ma a prescindere da una valutazione, ho ascoltato adesso David Parenzo, da una valutazione complessiva, storica e anche recente sui fatti, io il senso della visita del nostro ministro degli esteri, che si incontrerà anche con il ministro degli esteri tedesco, è il senso obbligato di chi, comunità internazionale, Unione Europea, che certamente dovrebbe fare molto di più, avrebbe dovuto fare molto di più, di chi ha un unico obiettivo, il ritorno al negoziato, il ritorno al confronto senza le armi e senza i missili. E io credo che questa, lo so che è la ripetizione di un mantra che va avanti da troppi anni, ma questa è la precondizione per sia i palestinesi che gli israeliani. E questo lo dico indipendentemente in questo momento da una valutazione sulle responsabilità. Il nostro tentativo dell'Italia, dell'Unione Europea, dentro la comunità internazionale, con gli Stati Uniti e con alcuni attori disponibili a un dialogo nell'area, a partire, come abbiamo appena sentito, dall'Egitto, è quello di ritornare faticosamente al tavolo delle trattative. Quindi precondizione quella che finiscano e cessino i missili dalla striscia di Gaza, posso dirla così, è la precondizione, cioè la vede come l'elemento principale a cui porre un freno? Ma questo è essenziale, finché partono da Gaza i missili ci sarà una reazione, e in questo momento il modo per stoppare il ricorso alle armi è quello di trovare una modalità per bloccare il lancio di missili, sapendo che questo è complicato anche dentro la governance complicata della striscia di Gaza, e noi dobbiamo sostenere e legittimare chi oggi vuole anche dentro l'autorità palestinese bloccare il lancio dei missili. Però le chiedo, della vedova, mi perdoni, di fronte a una ipotesi possibile, purtroppo speriamo di no, ma possibile che non cessi questo lancio, voi come governo italiano come vi ponete di fronte alle azioni israeliane, alle azioni militari che portano, abbiamo visto, anche morti e anche purtroppo tra i civili, perché si può dire si nascondono Hamas in mezzo ai civili, ma insomma qual è la posizione del governo italiano? Ritenete legittimo questa azione militare israeliana? Ma noi ovviamente riteniamo legittima l'autodifesa di Israele. Per altro verso, io non credo che di questo dovrebbero essere consapevoli anche le autorità israeliane, penso lo siano, poi anche Israele, che con David Parenzo riconosco come grande democrazia, forse proprio anche essendo democrazia ha dentro di sé delle contraddizioni e c'è una discussione su quello che bisogna fare, ma io non credo che gli israeliani pensino che un'occupazione militare di Gaza, diciamo il modo per far terminare in via presumibilmente definitiva il lancio dei razzi, che un'occupazione militare di Gaza sia la soluzione, sia una via verso la pace. Ha anticipato infatti la mia ulteriore domanda, cioè entrare nella striscia di Gaza militarmente dal punto di vista via terra, secondo lei sarebbe un'azione deleteria, cioè che non porterebbe a... Per quanto uno possa ritenere comprensibile, non finirebbe, non porterebbe a una pacificazione dell'area, dove sarebbe molto difficile, perché già l'area, se allarghiamo lo sguardo, alziamo leggermente gli occhi dalla Palestina, Israele, è un'area complicata, è chiaro che quello rischierebbe di essere un ulteriore fattore di destabilizzazione o un ulteriore alibi per quelle fazioni dell'Islam radicale che usano la vicenda palestinese per mantenere alto il livello della destabilizzazione. Secondo lei, Benedetto Della Vedova, Hamas, lei la definirebbe un'organizzazione terroristica? Ma su questo ci sono le definizioni internazionali. Io credo che questo genere, insomma, i confini sono sempre labili, poi alla fine queste organizzazioni si qualificano per quello che fanno e per come si comportano nel corso degli anni. Io anche qui non credo che un interlocutore che dovesse oggi sostituire Abu Mazen potrebbe essere un interlocutore più affidabile. Diciamo, è una risposta molto diplomatica, però propende più per il sì, mi sembra come risposta, no? Come analisi, però è una brutale sintesi mia questa, forse. Abbiamo visto che appunto quello che sta succedendo oggi anche dentro Gaza probabilmente è una lotta tra fazioni dentro Hamas e tra fazioni ancora più radicali di Hamas, più interessate alla destabilizzazione. Però ripeto, il nostro compito oggi deve essere quello di riportare faticosamente, senza fare una contabilità troppo sofisticata delle ragioni e dei torti, riportare al tavolo dei negoziati. E questo... da lì bisogna ripartire, perché ogni altra soluzione non credo che si dimostrerebbe migliore ai fini della vita civile, democratica, libera e sicura di Israele e ai fini di una ripresa in termini civili, economici e sociali della Palestina, perché poi questo è il dramma, che in tutti questi anni le condizioni di vita dentro la striscia di Gaza e nei territori non sono migliorate, ma è questo... nonostante diciamo l'attenzione di paesi con enorme disponibilità anche finanziarie nei confronti di quel territorio. Ma questo infatti è un punto fondamentale dal quale voglio ripartire dopo il traffico da Luisa Borgattini con i nostri ospiti, state con noi. Allora, Luisa Morgantini, tante considerazioni si possono fare, con noi c'è anche il vice ministro Benedetto della Vedova, David Parenzo. A te, insomma, qualche considerazione sul fatto, tu insisti che la questione principale è quella dell'origine di tutto, del male della situazione, è questa occupazione da parte di Israele dei territori palestinesi. Nulla alle responsabilità di ciascuno. La frase di Golda Meir citata da David Parenzo, sì, a me fa rabbrividire, perché non si uccidono i bambini, punto, mentre i bambini vengono uccisi quotidianamente. Ma io vorrei ricordare un'altra frase di Golda Meir, che è all'origine anche della domanda che poneva Angelo. Golda Meir disse: veniamo in un posto dove c'è un popolo, dove non c'è una terra senza popolo. Invece quel popolo esisteva, era il popolo palestinese, che è stato cacciato nel 48 in più di 900.000, con errori degli arabi, non discuto questo, è stato cacciato. Le colonie non sono insignificanti, non sono lo scambio, perché le colonie continuano oggi, e io considero purtroppo che Gaza venga tenuta in ostaggio per colpire in realtà la Cisgiordania, perché è lì che ci sono gli scontri, è lì che si prende la terra, perché il problema di quel posto è la terra. Perché Israele non ha una costituzione, non ha mai definito dei confini? Perché, e Parenzo qui aveva ragione, Rabin per esempio aveva capito che ci voleva uno scambio di territori in cambio della pace. Oggi il governo, e mi spiace dirlo, ma è così, il governo Netanyahu è un governo fatto di coloni, sì, ministri sono coloni. Però sono Morgantini, faccio una domanda. La questione non si uccidono i bambini, e questo siamo tutti d'accordo, ma ipotesi, se davvero fosse vero che dal tetto di una casa o di una lanciano i razzi, e se davvero fosse vero che dei miliziani di Hamas che hanno appena lanciato un razzo si rifugia in una casa dove ci sono anche dei civili, è legittimo secondo te considerare quello come un bersaglio militare? L'ho detto 100.000 volte e ripeterò sempre: considero i razzi tirati su Ashkelon, su Eilat, ovunque illegittimi. Certo, per questo l'abbiamo detto. Per fortuna non hanno fatto. No, ma io chiedo se è legittimo, se uno si nasconde in mezzo a dei civili, andare a colpirlo. Gaza non è che si nascondono in mezzo ai civili. Gaza, e tutti lo sanno, per chi è andato lo sa, ha 1.700.000 persone che vivono in un territorio di 40 chilometri. Non sono i bunker, sono le case dove abitano la gente, e comunque le famiglie, e vorrei finalmente che i palestinesi e i bambini avessero un nome, un volto non maciullato, ma vivo, quando giocano, quando riescono a trovare l'acqua a Gaza, che fanno il bagno. Quei palestinesi vorrei vedere, non quelli maciullati. Non potrebbe essere una soluzione che l'autorità palestinese riesca a fermare la sua ala estremista, appunto, purtroppo le frange estremiste con palestinesi. Allora, non si è mai fermato, ci saranno sempre frange estremiste. Sì. Hamas ha tentato, per esempio, di colpire la Jihad islamica, e lo ha fatto e ha tenuto la tregua, diciamo, per molto tempo. Perché nel momento in cui Hamas fa un governo di unità nazionale, aderendo alle ipotesi di Oslo, quindi al riconoscimento implicito dello Stato israeliano, perché si ricomincia invece a fare provocazioni, ad ammazzare civili in Cisgiordania, a continuare le colonie, eccetera? Hamas deve essere fermata la strada dei missili o dei rockets, ma deve essere davvero restituito al negoziato, ma un negoziato che non veda quello che è successo. No, ma è chiaro che frange estremiste ci siano, ci sono, però immagino, ci sono anche, se erano estremisti anche le persone che hanno preso quel povero ragazzo arabo e l'hanno bruciato e ucciso. Queste persone estremiste sono state trovate, al tre di questi hanno confessato, trovate dalla polizia israeliana, e immagino, David Parenzo, passeranno gran parte della loro vita in carcere. Questa è la differenza sostanziale, ma non voglio ritornare su quel terreno brutale della famosa miccia, come tu giustamente hai ricordato all'inizio. Ogni guerra parte da una miccia, ora si stanno per ricordare i cent'anni dalla prima guerra mondiale, no? Anche lì fu una famosa miccia, ma non è, e hai ragione, quella fu una miccia, ma la differenza è che appunto Israele li ha presi, li ha sbattuti in carcere, ci sarà un regolare processo e verranno molto verosimilmente, anzi sicuramente, condannati. Dall'altra parte non è così, la questione è veramente questa, e facciamo ancora una volta un passo in avanti. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Della Vedova, che rappresenta il governo, mi pare una posizione più che mai ragionevole, e speriamo appunto che anche il ruolo della Morgantini e dell'Europa lì possa portare un'accelerazione, come dire, se non altro del mettere le persone intorno a un tavolo. Ad oggi qual è il dato di fatto? L'Egitto, Israele chiedono, accettano la tregua, Hamas non accetta la tregua. Pare anche l'autorità palestinese, cioè anche Abu Mazen. Anche l'autorità palestinese. Allora, prima io dicevo all'inizio di questo collegamento che il problema è tutto interno al mondo palestinese, perché il primo a essere in difficoltà, il primo a essere messo sotto scopa è il signor Abu Mazen. Hamas ha perso totalmente il controllo. Io penso che Hamas abbia perso totalmente il controllo, che ormai le famose brigate, che ormai sono tantissime, perché noi citiamo una, ma in realtà ci sono 4, 5, 6 gruppuscoli armati pericolosissimi che ormai non sono neanche più sotto il controllo di Hamas, che Hamas ha coltivato, coccolato e armato per anni, perché quello era il modo per costruire il consenso sul territorio. Dentro le università islamiste costruite da Hamas non solo si tenevano le armi, ma si educava all'odio. Allora il problema è oggi tutto di Hamas, che gli è sfuggita di mano la situazione, non può ora accettare una resa in questo momento, una resa, ripeto, quella non è una guerra, è un'operazione militare quasi chirurgica per cercare di fermare e per proteggere i palestinesi stessi che vivono in Israele. Io su questo veramente non, e anche gli israeliani, insomma Israele, tutti i cittadini di Israele, cioè palestinesi e israeliani, tutti quelli che vivono in Israele si devono sentire protetti oggi da questa operazione militare che purtroppo ha qualche danno collaterale, come c'è purtroppo in qualche danno collaterale. Insomma, il dramma però effettivamente, visto la striscia di Gaza, c'è, perché ricordiamo, guardate, prendete una cartina geografica, andate a vedere Gaza, com'è la striscia di Gaza, su questo non c'è, non so, che ne so, a est la Giordania, come i territori della Cisgiordania, dove si può eventualmente fuggire, come ci diceva Luisa Morgantini, su questa ragione la striscia di Gaza è lì, a sud c'è l'Egitto, a ovest c'è il mare, a est c'è Israele e le frontiere sono blindate, quindi dove fuggono le persone che sono intrappolate in questa guerra? Non fuggono da nessuna parte. Va bene, ci fermiamo qui, ringrazio David Parenzo e Luisa Morgantini per essere stati con noi, e c'è il giornale radio, poi parliamo di politica, ripartiamo dal caso Galan dopo il giornale radio, state con noi. 24 mattino. Allora, alle 9:08 minuti ripartiamo a parlare un po' di politica. Sono ancora Alessandro Milan, sapete, fino al 25 luglio, andiamo in onda fino alle 9:30. Allora, parliamo un po' di politica, soprattutto ci torniamo a concentrare sul caso Galan. Oggi era calendarizzata la decisione in aula per la richiesta d'arresto che pende sull'onorevole Galan da parte della Procura di Venezia. Il caso Mose è quello di cui si discute, ma Galan è in ospedale, una brutta caduta, una frattura tibia e perone, poi un problema relativo al gesso ha aggravato la sua posizione, per cui è in ospedale, e ha scritto una lettera alla Presidente della Camera Laura Boldrini dicendo: io voglio esserci quando ci sarà un dibattito sulla mia possibile carcerazione. Ne discutiamo con Maurizio Bianconi, onorevole di Forza Italia, buongiorno, eccoci qua, ben ritrovato. Buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato. E saluto anche il deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano. Buongiorno onorevole Fiano, eccoci. Buongiorno a tutti voi. Allora Bianconi, intanto chiariamo una cosa. Giovedì è stata rimandata, se non sbaglio, ma giovedì sarà ancora in ospedale, presumibilmente, Galan. Sì, quindi penso di sì. Bisogna vedere se vale per questi voti la regola che vale anche per gli imputati nelle udienze penali. Se uno è obiettivamente impossibilitato a presenziare, il rinvio è dovuto. Ma se vorranno utilizzarla questa regola, e se no si voterà senza Galan. Esatto, perché non credo che sia non è un processo, voglio dire, quindi non ma comunque si discute di lui, in genere lui ha diritto di parlare. Non penso ci sia una regola così, però insomma mi sembra che questa poi sia una malattia vera. Si è rotto una gamba e ha avuto degli emboli, insomma, nessuno lo mette in dubbio. No, tante volte potrebbe essere anche un ha visto se la fanno tattica dilatoria, una tattica dilatoria, oppure i ricoveri tattici. No, ma detto non mi sembra sia un ricovero. Non mi sembra. Però veniamo al punto della questione, al di là delle condizioni di salute, ovviamente pronta guarigione all'onorevole Galan come a tutti. Però onorevole Bianconi, intanto lei come voterà? Io voto di regola sempre contro la carcerazione preventiva. Sempre. Sono contrarissimo, lei lo sa perché mi ha sentito più volte, sono contrarissimo all'utilizzo della carcerazione preventiva. Questo è un paese dove si mettono tutti in galera prima, poi appena c'è la pena definitiva bisogna trovare tutti i sistemi per non fargliela scontare. E questo è un sistema che va invertito, questo in via generale. Su questo, guardi, sono assolutamente d'accordo. Io uso un'altra espressione, dico sempre, siamo un paese di eterni, di condannati appena siamo indagati e di vittime di errore quando siamo condannati, cioè, veramente. Sì, purtroppo questo è. Nel caso di specie, a prescindere dal merito che non tocca a noi, certo, verificare, a prescindere da tutto, mi pare che la richiesta di Galan di essere interrogato a piede libero fatta ai giudici sia una richiesta legittima, alla quale invece si fa fronte un diniego di interrogatorio se non prima e dentro la carcerazione però preventiva. C'è un piccolo problema a questo ragionamento, onorevole Bianconi, io lo posso sottoscrivere. C'è un piccolissimo dato di fatto che per tutti i cittadini, e la battaglia che lei può fare contro la carcerazione preventiva la può fare, può cambiare le leggi, però non porta a nulla. Cioè un cittadino normale viene arrestato e sono stati arrestati, e invece uno, perché è parlamentare, può fare questo discorso a dire sono contro. No, questo lei mi ha chiesto una mia valutazione, io gliel'ho fatta e gli ho detto. Poi lei ora pone un altro problema, che è il problema della parziale immunità che hanno i parlamentari, che ha tutt'altra natura, che non è quella di preservare i rei dalle carcerazioni, ma è quella di preservare la funzione parlamentare, e su questo si potrebbe discutere una vita, per quanto è stata snaturata da una parte e per quanto è stata mal interpretata dall'altra. Il primo che è innocente alzi la mano. Il dato di fatto però è questo, sì, abbiamo detto che è nata storicamente in altri tempi per altre motivazioni, forse se ne è abusato. Il dato di fatto è che le sembra giusto che Galan, in quanto parlamentare, non è in carcere rispetto a cittadini che sono andati in carcere? Sì, mi sembra giusto per il principio dell'immunità e di preservare la funzione e il valore della funzione. Non mi sembrerebbe giusto se diventasse una corazza fuori luogo. Vede, io le voglio ricordare una cosa. Nella mia provincia, dove io sono nato, c'era un collegio sicurissimo per la Democrazia Cristiana, era il collegio senatoriale di Montevarchi, dove Fanfani, il tanto lodato Fanfani, presentò un senatore, mi pare si chiamasse Petrilli, ma non voglio dare un nome per un altro, finché costui non decedette, non morì, perché era intricato con Eleni Petromini, aveva avuto una condanna, per non essere processato su questa condanna, lo fece stare senatore tutta la vita natural durante. Questi eccessi e questi abusi hanno poi portato l'eccesso e l'abuso dall'altra parte. Un pochino di corazza però già c'è, perché a oggi Galan sarebbe in carcere. Se fosse stato l'assessore regionale Chisso che è stato arrestato, lui per esempio... Mi segua, dottore. Sì. Che il parlamentare abbia diritto a una deliberazione e a un esame preventivo sul fatto che l'intervento della magistratura sulla sua libertà personale, sulle perquisizioni tribunali, non ha natura giudiziaria o giuridica, ma ha natura di persecuzione politica. Questo mi sembra che sia un principio costituzionalmente sacrosanto. Sì, sì. Quindi questa delibazione si risolve soltanto in un ritardo di, ma non in una negazione di. È chiaro. Ed è relativa alla funzione svolta. A me pare molto giusto questo. Nell'ambito di rapporti di democrazia normale. No, ormai è tutto è tutto inquinato, non ci si capisce più niente. Resta da capire, ma adesso voglio sentire anche l'onorevole Fiano, perché, non so, per il parlamentare che fa politica debba valere questo discorso e non allora estendiamolo anche al consigliere regionale, anche lui ha una funzione, voglio dire, in cui c'è il rischio di un'eventuale persecuzione, no? da parte di un magistrato. Però, onorevole Fiano, partiamo da come lei voterà. Il Partito Democratico, ricordo, ha votato, credo, a favore in giunta per l'arresto. Ma io non ho avuto ancora tempo di leggere le carte, ma in genere prima di votare leggo le carte. Ovviamente mi fido molto del giudizio che hanno espresso miei colleghi che conosco essere attentissimi alle garanzie costituzionali e che hanno letto da cima a fondo molti chili di carte, verificando che non esisteva nella richiesta della magistratura nessuna ipotesi di fumus persecutionis, quindi nessuna ipotesi che i provvedimenti che venivano richiesti, cioè quello di un restringimento della libertà, fossero dovuti ad un atteggiamento pregiudiziale e non alla realtà, diciamo, documentata, immagino probante, di una attuazione di ipotesi di reato e anche di una possibile continuazione o inquinamento. Non so quali siano poi le ragioni che hanno fatto dire alla magistratura che serviva un arresto. Le chiedo, visto che di recente è cambiato secondo me un po' il clima in Parlamento, abbiamo già ricordato di recente anche la vicenda di Francantonio Genovese, Partito Democratico, per il quale lo stesso partito voi avete votato per il sì quando c'è stata la richiesta d'arresto, sono cambiati un po' quei tempi che, come ci ha detto l'onorevole Bianconi, avevano portato forse a considerare un principio giusto in maniera degenerativa? Ma è cambiata anche un po' la generazione dei politici. L'altro giorno Vasco Errani, con sentenza non definitiva, che peraltro molti di noi pensano anche ingiusta, ma questo a prescindere, ha deciso di dimettersi. Come voi sapete bene, in questi anni abbiamo visto politici di primissima fila o proprio della prima fila in assoluto che hanno deciso di non dimettersi di fronte a sentenze di qualsiasi grado. Quindi è evidente che il sentimento popolare che vuole che non vi siano privilegi ingiustificabili si è trasmesso ad una nuova generazione di politica. Nella Camera dei Deputati è cambiato quasi il 75% dei membri, l'età media si è molto abbassata, quindi sentimenti giusti di combattere qualsiasi modalità di privilegio si sono diffusi. Sa che però proprio sulla questione Errani c'è stato anche un fuoco di fila di critica al Partito Democratico, a dire ma come siete adesso tornati garantisti, visto che molti appunto nel partito hanno detto Errani ha sbagliato, ci voleva il terzo grado di giudizio, prima la Cassazione, prima di definire una condanna definitiva. Ma come queste cose spesso non le avete dette per rivali politici? No, guardi, io e quelli che la pensano come me abbiamo sempre parlato di ciò che è detta la Costituzione. Una sentenza è definitiva quando interviene il terzo grado, il controllo di Cassazione. Io rimango di quella opinione. Poi se qualcuno sente su se stesso il peso di una promessa, oltretutto nei confronti dei suoi elettori, non va dimenticato che il Presidente di una regione viene eletto con un voto diretto e quindi sente su se stesso sicuramente il peso di una responsabilità, di una chiarezza, di una trasparenza è un segno degno di nota dell'etica personale di Vasco Errani. Certo. Onorevole Bianconi, ha fatto bene secondo lei Vasco Errani a dimettersi? No, non ha fatto bene. Ha fatto bene oggettivamente. Soggettivamente ha ragione Fiano. Se ha queste pulsioni interiori e questo imperativo categorico, questo impegno che ritiene di aver preso, ha fatto indubbiamente bene e rientra nella sfera delle scelte soggettive. Nelle scelte, come scelta politica no, perché si asserva un principio tremendo, e cioè che la politica è commissariata anche in fase interinale dalla magistratura. Sì. E questo lei capisce non va bene, insomma non è accettabile come principio. E non è accettabile. Però scusi, lei dice per se stesso, alla giunta hanno votato per cui non c'è fumus persecutionis, questo a maggioranza, ecco, sì, diciamo. Forza Italia no, non ha votato. Lei cambia discorso. No, ma è chiaro, però no, perché mi è venuta in mente una questione di Galan, perché lei dice io di principio voto sempre no, cioè questa perché sembra un po' la difesa un po' culturalmente contrario alla carcerazione preventiva, ma, meno che ma in va casi bene estremi. D'accordo, però quindi sembra una difesa corporativa, no, questa no, sembra no, qui un po' ho l'opportunità di far valere questa mia opposizione culturale, la faccio valere. Nel caso di specie la cosa, vede, Galan è stato onesto a suo modo, nel senso che quando ha fatto quella conferenza stampa, che io non avrei fatto, ha detto una cosa praticamente che, come posso dire, dà ragione a, in qualche modo a quello che dice la giunta, perché ha detto: guardate, che se io fossi stato il magistrato che mi ha inquisito, anch'io riterrei che nei miei confronti ci sono gravi indizi, perché non è il magistrato che ha sbagliato, ma chi gli ha dato le carte che ha sbagliato. Quindi voglio dire, a suo modo ha, si è tagliato un po', esatto, si è tagliato un po' l'erba sotto i piedi da solo, però ha detto: ma perché non mi volete sentire, perché non mi volete interrogare in condizioni di normalità e non dopo due o tre giorni di carcerazione preventiva? Ho capito, ma la carcerazione preventiva, allora, la battaglia sulla carcerazione preventiva, contro la carcerazione, le fa onore, ma voglio dire, però gli italiani adesso vedono che questa battaglia, per il momento c'è chi può opporre degli strumenti concreti, come cioè il parlamentare, i poveri sfigati no, invece di fronte a questa battaglia. Io capisco quello che dice lei, non lo condivido, però se c'è un'opportunità di fare questa battaglia anche in questo modo, io la faccio. Non è che vado a privilegiare uno, cerco di evitare un'ennesima ingiustizia. Se ho l'opportunità, la cerco di evitare. So che è del tutto inutile, perché quello che però, dice Fiano, è assolutamente vero: c'è una maggioranza, come posso dire, completamente. Completamente a favore di questi provvedimenti, quindi diventa una battaglia teorica. Sì, ma solo che lei può fare una battaglia che può valere per 915 persone. Se faccio questa, la faccio. Talvolta la faccio per degli sfigatissimi, magari che sono 5-10 contro 60 milioni, stavolta la faccio per uno di 600 privilegiati. Ma la battaglia rimane uguale, rimane uguale. Per concludere, poi vedremo giovedì, onorevole Fiano. Anche per lei giovedì si voterà oppure no? Visto che così mi faccia, visto che siete anche, immagino, addentro più alle cose parlamentari di me. Al momento è confermata la votazione di giovedì, poi ovviamente non conosciamo le condizioni di salute di Galani. Mi faccia dire però che io sono assolutamente per diminuire il tasso di qualsiasi tipo di privilegio che noi parlamentari possiamo avere. Però è vero quello che i costituenti scrissero riguardo al fatto che uno che viene investito del potere di legiferare, e il potere di legiferare di un parlamentare non è identico a quello di un consigliere regionale, uno che viene investito del potere di governare o di legiferare, è necessario essere sicuri che nel rapporto tra due dei poteri costituiti dello Stato, quindi la giustizia e il potere legislativo, esista un supplemento di possibilità di verifica. È vero che ci sono delle cose della Costituzione che possono risultare odiose, però è un po' complicato difendere in alcuni casi la Costituzione per quello che c'è scritto nella Carta, per molti dei principi e dei valori fondamentali, e altre volte quando questi principi sono quelli per l'appunto di salvaguardare un possibile conflitto tra due poteri dello Stato, insorgere e dire che questa forma di controllo non deve essere. Allora, staremo a vedere. Intanto vi ringrazio, Maurizio Bianconi di Forza Italia e Emanuele Fiano di Partito Democratico. Staremo a vedere se giovedì c'è davvero questo voto. Grazie davvero. Voglio concludere questa puntata di 24 Mattino nel salutare il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri. Sindaco, buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, di recente c'era stata un'indagine per 62 credo impiegati del comune accusati di assenteismo, diciamo, a vario titolo. Cosa è successo? Sono comparsi, lei mi dirà che non è strettamente collegata la cosa, vetri alle porte dei dipendenti, e cioè insomma, che è successo al suo comune? Ha fatto cambiare in modo da rendere tutto trasparente dal punto di vista dei vetri, in modo che tutti vedano se la gente lavora? Allora, noi da appena abbiamo iniziato la nostra esperienza amministrativa abbiamo fatto anche degli interventi di adeguamento alla legge 8108. Tra i vari interventi ci sono quelli dell'illuminotecnica, ed è certo che questa qua l'abbiamo presa di buon grado, perché riusciva a contemperare sia l'esigenza di avere più luminosità nelle stanze, sia quella di rendere trasparente le attività dei dipendenti comunali agli occhi dei cittadini. È certo che questo intervento non lascia spazio ai fannulloni. No, ma certo, ma mi faccia capire, se adesso passo presso il comune di Acerra, vedo dentro e vedo gli impiegati che lavorano attraverso il vetro. Esattamente. lei passa nei corridoi e può vedere attraverso i vetri i dipendenti che sono a lavoro per dare... Ah, dentro il municipio. Eh no, ma cos'è? Ma come l'hanno presa? Che ne so, i sindacati, per esempio, come l'hanno presa questa cosa? Beh, bene dal punto di vista dell'illuminazione, perché tutto ciò che migliora le condizioni di lavoro immagino sia una cosa positiva. Allo stato attuale, certo che ci sono diverse vedute rispetto a questa misura. Certamente i fannulloni avranno un'idea controversa di questa cosa, ma ci sono degli impiegati, che invece fanno il proprio dovere, che indipendentemente dal fatto se vengono visti o meno, tranquillamente stanno lì a posto loro a lavorare tranquillamente. Quindi, questo certamente, però mi scusi sindaco, si combatte l'assenteismo così? Cioè, guarda, mi ricorda un po' come la vicenda dei tornelli di Brunetta, se ricorda, quando da ministro disse mettiamo i tornelli a tutti in modo, cioè proprio far vedere fisicamente che sei lì attaccato alla poltrona e quindi qualcosa starai producendo, no, nella pubblica amministrazione. Allora, ribadisco che praticamente questo intervento è per il illumino tecnico, però avere un comune dove tutti sono al proprio lavoro e non sono chiusi nella propria stanza, io sono arrivato che c'erano addirittura le porte chiuse e i citofoni alle stanze, e mi sembrava un poco assurdo. No, come i citofoni alle stanze di chi? Dei dipendenti. Cioè, uno per andare, che ne so, all'ufficio anagrafe doveva citofonare, dice no, è chiuso. Allora, praticamente siamo arrivati lì che c'erano i citofoni e praticamente sembrava assurdo per un dipendente pubblico che logicamente deve dare un servizio ai cittadini, è giusto che sia nella disponibilità, nella disposizione dei cittadini, salvaguardando la privacy in termini di insonorizzazione, però deve essere lì, perché altrimenti il cittadino, il dipendente viene sempre visto come un costo, ma questo è chiaro. No, vabbè, ma addirittura il citofono per il dipendente mi sembra una cosa francamente assurda. Senta, per concludere sindaco, mi faccia capire quei 62 impiegati che fine hanno fatto? Il processo è in corso, ma sono ancora in servizio al comune? Quei dipendenti stanno facendo tutto quello che è il rito che prevede la legge. Noi ci costituiremo parte civile per salvaguardare i diritti dei cittadini, ma per salvaguardare anche l'onorabilità e il rispetto degli altri dipendenti, certo, che invece stanno proprio forse a portare avanti. Però stanno anche loro lì, immagino. Cioè, per la legge non si possono, tra virgolette, finché non c'è il processo, cacciare, no? Allo stato attuale stanno ancora in servizio, l'ufficio disciplinare sta facendo le proprie attività e quindi noi siamo nei canali della legge per fare tutte le... per seguire chi ha commesso questo reato. Certo. Chissà come hanno preso i vetri, come hanno preso così. No, non si sono fatti ancora sentire, quindi allo stato attuale non si è fatto sentire ancora. Chissà se sono al lavoro. No, mi permetta sono questa battuta. Mi permetta sono questa battuta per concludere. Sono sicuramente al lavoro. Va bene, io la ringrazio sindaco, grazie Raffaele Lettieri, sindaco di Acerra in provincia di Napoli. E con lei chiudiamo questa trasmissione. Vi ricordo intanto tutti gli estremi per contattarci: la mail 24mattino@radio24.it e poi su Twitter io sono Alino Milan e poi c'è 24 Mattino, ovviamente, che è l'account della trasmissione. Poi siamo anche su Facebook, così 24 Mattino, insomma, come dico sempre, vi posso dare ormai le chiavi di casa e ci potete dormire nello zerbino. Allora saluto Giorgio De Luca, che troveremo anche domani alle 6, sì, Peter Bescapè in regia, che troveremo anche domani alle 6, sì, insieme a Alessandro Marco Tulli e Elisabetta Fusconi, siamo tutti qui, questo è 24 Mattino, a domani 6:30.